profeta. E me, me lo be. Luca, me lo be. E me, ci sei? Vecchio. E me. Ah, ci sei o non ci sei? Ah, mi senti, Macchi? Come non ti sento? Buonasera, grazie. Già ti sento, già. Sono in campagna. Partendo da campagna, fra pochi minuti fa, adesso chiudo, non scendo più, lo compattiamo. Ti sento disturbato nel QRM. Ci si parte? Nel buco. Sono in cucina che Marina è stata a fare la doccia lì, sono entrando io, mi ha messo a cucinare. Sto facendo le pavette fresche, la ripisa. Già sono buoni, a Bacchisio lo senti? No, avanti Bacchisio. No, non lo sento. Mi sembra sta salendo da campagna. Io su quella durone da rimane, mal di pancia, fisso. Mi sa che i calcoli stavolta mi hanno detto di andare a Porta di Maragana, però qua la cosa si mette male. A me mi fa male sempre quel fianco, oggi devi lasciare lì. Infatti devi andare un gatto, ma ci vado giovedì, tanto mi ha detto un martedì o giovedì andare a ritirare alle 7.30. No, questo mal di pancia è fastidioso, fisso. Poi c'è anche la tachipirina, perché è un antidolorifico, nulla, non sembrava che stava passando, ma niente. Il villaggio Gnadi mi parte da mezzo alla schiena, tutto il fianco sinistro, sino arrivare a metà e mezza. Sono i calcoli, vabbè, anche l'ernia del disco già coincide, ne ho 5. Faccio orecchina in 2. Allora, ieri sera mi sono riposato, poi mi sono svegliato, cosa ho fisso, poi siamo usciti a fare delle commissioni, tutta la sera con questo dolore fisso, infatti volevo prendere una buona, sai che volevo prendere ieri notte, ma non mi ha fatto nulla, e poi stanotte mi è passato, poi c'avevo dolore alla bocca dello stomaco, un dolore forte mi fisso. Perché lì fermo ci è passato per quello. Io mi sveglio già col dolore, pure avammi sono carrombato un poco, fino che la ringhiera faccia solo, fermo non mi fa male, come mi muovo mi fa male, però la mattina quando mi sveglio ce l'ho già. Non si può fare niente. Buffa, sono in cura da Issa di Alghero al centro di dialisi. Cosa si buffa? Nulla, me lo tengo così, sono rini mi imballati da qui a la medicina. Infatti, io ieri mattina mezzogiorno mi sa, 11 e mezzo ho preso la bustina, dopo mi sono preso la tachipirina, ma mi raggiù sempre, sono il calco, questo che è proprio... si è mosso, non si stanno fermi tanto quanto, ma non si buoni in moto è un casino. Lo so, mia figlia soffre il calcolo, è in cura lo stesso anche lui, Alghero. Mi ha dato dei venini, telefona e gli dico di prendere quel tipo di medicina, che prende lì, gli passa, però a periodi gli viene di nuovo, capito? Poi gli hanno fatto anche il laser lì, Alghero. A chi non cassa sali non gabavano i bici. E infatti anche io vado a Alghero sempre. Oramai sono assegnato a Alghero, al centro di Alice. Di lì. Un casino grazie. Bisogna fare le cose inutili. E vabbè, quando stavo bene mi avevo mandato via. Dovevano tenermi lì, che non c'era posto. La chiamiamo noi. Adesso che sto raffreddato, andavo a fare, tanto mi mandano via. Se sei raffreddato non ti basi di vita, tu sei mandare. Già lo so, purtroppo devi andare quando stai bene. Andi e tinti quando stai bene a vedere. Tu glielo dici, quando me lo dici a voi mi intendo sempre male a venire. Ah, cioè che sto bene, me lo potete fare questo corso? Sì, vabbè, comunque devo ripetere di nuovo la, come si chiama, le visite, ecco, prelievi, tutte queste cose. Elettrocardiogramma. Gli esami di nuovo deve fare. Già lo so. Io infatti ogni anno là gli porto gli esami, me li faccio 10 giorni prima. Poi quando andrà che dai, ma non si può fare niente, si. Pensa che tira davanti, ma capito. Io sono cucina in terrazza, sono nella parte della piazza. Io sono dalla parte di cucina che c'è il sole, però subito mi bocca che mi dovevi all'anca. Sempre da quella parte. E a chi non vede in terrazzo, non so, ne ha voglia, Che lavoro qua io in terrazzo il sole. Infatti ho messo quei pannelli a faccia sole, a caricare, perché ieri hanno caricato poco. Già lo vedo che c'è il sole, a Puglia, già si vede. Boh, per carità, subito, questo dolore da voi. C'è, leggero, ma ce l'ho. Non lo so, adesso vediamo un po' cosa mi dicono. Mi sono rubato, guarda che è anche pericoloso, capito? Lo so, io mi cosa posso, mi? Dalla ringhiera alla gadria, sì, mi faccio qualche cosetta così, però in ogava è tutto pulito, tutto a posto. Cosa faccio? Niente, mi sto seduto, mi guardo il telefono, certe volte mi accendo il computer, E beh, ti credo, la fai, niente, grazie. Nuda, lunga. Via. Casino, vabbè, sai cos'è che. La colpa non è mia, io la do a loro perché non mi hanno mai chiamato, cioè, andati in chivi, dopo una cosa o poi l'altra mi mandavano via. Ma, stamattina alle mezzogiorno e mezzo mi è arrivato il decespugliatore che mi ha ordinato tramite Amazon. Tutto bello, l'ho piazzato, tutto abbullonato, quello che c'era abbullonato. Questo che ho preso adesso è... lo fa in due pizzi, ne sa chi l'ha per metterla in macchina, non è tutta unica l'assa, la puoi separare e lo fa in due. Gli ho piazzato il para rame, diciamo, erba, il rocchetto e niente. Adesso sabato quando scendo lo faccio provare a mia figlia, io non le faccio. L'ho preso per lì, questo è più piccolo, più leggero, già maneggevole, è alpina. Ma che cosa, non ho capito? Il decespugliatore, quello là, mi ha detto che è ingrippato, vivo l'ubriccone, l'ivace, la biella, la dite. Adesso me lo devo ritirare, già me lo smonto io qua a vedere se è vero. Immagina, ti hanno già battuto i pesci, hanno smontato, ti hanno già battuto i pesci, capito? Non vuoi più detenzione in giro, no, grazie. Non ce n'è più detenzione, gente onesta, non ce n'è più. Era convinto che me lo compravo da lui, no? Quando lui mi ha detto così, che lui li vende 300 euro. La gente allora gli animagni io, di Nadame. Già me ne aveva fregato 35 euro. Ha funzionato un paio d'ore, si è inciudato e non ha più camminato. Ma... Niente onesta, viene poco, capito, poco e niente. Ma, vabbè, comunque non glielo lascio, lo stesso se noi se lo tratta a Bari Beach, ma trattassi tu io, mi lo tratto tu, mi lo tratto io, lo lago in garage, tanto mi sa che i pezzi sono quasi uguali a quello che ho preso. Vabbè, grazie, amico, non ti chiedo una cosa, terrazzo, ma ciao, un po' di... ferre così, no, vite, che balla, che una staffa da mettere nell'antenna in terrazzo. La dovevamo comprare, siccome ce ne siamo sempre dimenticati, e allora ti ho messo il pezzo con un paio di ferro, e invece che ho una staffa, me l'abbiate. Ah, ce l'avevi la staffa? L'hai trovata nel terrazzo la stampa. E allora? E allora vedi, mi ha sinistra, sai, ma io già ne ho pizzi contro pizzi. Io già ne ho roba, solo un bel di voci può più azzeccarla che andare a pigliarmi la nuova. Di Giulio qua. E già sono qua. Allucinante, E così? Ah, sta cucinando le favette. Sta bollendo, no? Poi mettere la mia prezza e mettere il cucino. No, io mi ho fatto un cappuccino cream caramel, tre cream caramel, al caramellato. Ma adesso? Adesso con la macchinetta. Buonanotte. C'ha quel dolce del caramello. Io non posso fare nulla, ragazzi, come si basta. Ciao, qui abbiamo i budini qua anche da fare, che una gara. Buono. Prendi le ciardi, no, crei caramel, poi io ci aggiungo un po' di caffè, ed è proprio buono, proprio gustoso. Grazie, non mi sono gubbia, rimangio di gosso, ma purtroppo oggi mi sono fatto pasta in bianco, olio e formaggio, un po' di insalata e una frutta, boh. No, oggi ho fatto fuselli con il suo macinato, polpette, verdura cotta ho fatto, adesso non mi ricordo che verdura, la cicoria, che è rancida, e la frutta è buona. Ma sono confidata a pranzo, ho mangiato. No, frutta non ne ho mangiato, no, ho mangiato a casa perché devo prendere la bustina. No, io ne ho mangiato due mandarini buoni, freschi freschi. E in campagna ci sono ancora residui di aranci, buoni, proprio buoni buoni. Ne ho mangiato uno, buono, ma sotto, veramente era stato proprio succoso, buono. E ne gustano l'acciaffi, io ne gustano, ne ho trovato così buoni. E quei mandarini che mi ha mangiato sono di campagna nostra. Ah dai che buoni, freschi freschi. Li ha fatti stamattina mia figlia un po', che è scesa ad andare a mangiare ai cani. Come mandarini anche noi ci abbiamo mangiati dolci, buoni lo stesso, sono finiti. Passa al prossimo anno, mi stanno solo le ciliegie, tu non hai ciliegie in campagna, grazie. No, perché se ha mangiato l'albero, il verme, l'ho piantato 4 volte, ha avuto l'anno di ciliegie, pochi, e poi si è secco. Mi ha divulgato e era un verme che canta e la mano l'albero. Non è zona di ciliegie da me, ci sono troppi vermi, si mangiano l'albero al centro, si rimbiutano al centro del tronco dell'albero, se lo mangiano. E allora non ne ho più piantato, a chi l'ho pigliato 4, tutte e 4 hanno fatto la matessa in vini. E tu ne hai, Marina, ne hai ciliegie. Grazie a Umbe. Speriamo che non facciano la fine dell'anno scorso, che è piovuto quando non doveva piovere e si sono tutte rovinate. E anche quello ci speriamo di no. No, a me non è zona di ciliegie, perché ne ho messo 4 alberi e hanno fatto la vini di Gecko. Hanno bucato lo brutto il primo anno e poi si è secco l'albero, ne li ho levati, l'ho tagliato e all'interno, al centro del tronco dell'alberello c'era tutto scavato, un verme lungo quanto il tronco c'era. Ne ho levato gli altri la stessa cosa, ce la mangiano i vermi. Allora sai che la stessa cosa gli ha fatto agli alberi di pesche, tutti così, come stai dicendo tu, scavati dentro, da questo verme lungo lungo, alberi di pesche e anche altri alberi. Ehi, anche a me, me l'ha fatta le susine, la bruna muninca, quella ovale e quella rotonda. e anche agli altri alberi di pesche. Uno me ne è rimasto, albero di pesche vicino al cancello. Forse chi ci non l'hanno vista ancora. E pesche già ne ha quattro quello, già ne sta facendo ogni anno. Però gli altri che ci avevo sparpagliati per la campagna, tutti morti, uno di me l'ha rimagnato. Purtroppo succede, nella campagna c'è tanto lavoro, però purtroppo succedono queste cose, o se li mangiano qualche animale strano, oppure succede che piove poco, piove troppo, o altre malassorti che rovinano. Non è sempre così, però purtroppo a volte succede. Lo so, ma quando pioveva poco, al limite alle piante io gli facevo il giro, no? E con la pompa lunga gliela davo io l'acqua, capito? Anche se erano alberi già grandi, che mettevano frutti da molto. Un po' godeva fino ad azzerare un attese, quando vedevo che non pioveva, quelle stagioni secche. Con la pompa la sera gli inappiavo tutti, capito? Beh, d'estate, anche se gli alberi sono grandi, l'acqua gliela dà sempre babbo, agli agrumi, ad altri alberi, anche gli ulivi forse innaffia, penso di sì, non è che te lo so dire, comunque gli agrumi sono sicura, solo che anche quella è una spesa alla fine, però la verità, già quando il tempo è bello, che non rovina le cose, ne vale pure la pena, perché ne toglie tanto. E a me lo dici, io quando, i primi anni che ero sposato, ci avevamo di tutto in campagna, maiali, conigli, oche, tacchini, galline, tutto, anche l'asino ci avevo. Però facevo dal lavoro, dormivo lì, capito, praticamente anche Paoletta, passavo a prendere a lei, scendevamo in campagna, vivevamo in campagna, si può dire, con mia suocera. E c'era di tutto, c'era piantato. Quando è così già la tieni conto, ma una volta che poi me ne sono salito io e mia suocera ha cominciato a invecchiare, è andata calando, capito. Però un tempo c'era di tutto, vendevamo anche le uova dalle galline. Allora sai quante ne avevo io? Ne avevo comprato 100 a metà prezzo, a 5.000 lire mi sembra me l'avevano lasciato. Al pollaio che c'è da San Camillo, non so se c'è ancora, udezzimi. Di quelle che sono già grandi, però per altri 2-3 anni facevano le uova. E allora sai le uova che mi facevano, ed è un gnadì di 20 euro, mezzuzza, l'avevo messo il cartello nel cancello, si fermava la gente, me li chiedeva e glieli davo. Perché ne facevano un bel po', quando vediamo chi non invasivano più, ovi, mezzuzza, li si saccava un dito in culo, chi se non invasi più. E ti lavare un botto, l'hai pia la boniare un bozzetto. Questa giustizia è bella. Io mi ricordo quando ero piccola andavo da una che abitava vicino a casa. E non l'ha detto il giustizio, l'ha detto Graziano, il colpaccio non è colpa mia. E comunque ci sta sgridando, grazie, va bene, non lo dico più. Stavo dicendo che c'era una signora che vendeva le uova, ma proprio le toglieva direttamente dal sedere, dal sotto il sedere della gallina le uova, quando andavo a prenderle, fresche fresche. Ehi, anche noi, dentro il pollaio le abbiamo fatto le tavole, le staccionate con la paglia, no? Tu l'alzavi e prendevi le uova. E invece mia suocera, quando si accorgeva che c'era qualche gallina già più grande, la graffava, lì si saccava rudito, dice chi se non invasi più, tra che li tirava rugudo. La epidia era buona un bozzetto, la pulivano. E poi per controllarle le galline bisogna fare così, digliela a Luca. Non si è capito niente che stavo parlando, grazie, cosa hai detto? che per controllare la gallina se fa uova la devi controllare così con il dito. Vabbè, certo. Vabbè, io mi assento, Gratta, ci sei dopo? Vado a me una sciacqua, deve venire mio cugino, deve venire. Chiama, già acceso qua, tanto già sto facendo cosa qua lo stesso. Chiama! Luca, beh, parate, Gigi, o ci sei mangiati le favette! Graziano, mi senti? Dimmi. Un paio di cuffie, di quelle Bluetooth, no, senza fili. Ne ha attaccato il filo la fine. Sto cercando di... Cioè, proprio Ciao. Come saldi i fili, lì? Ah, li stai saldando. Eia. Ma di che cosa sto facendo? Basso, ti sento. Però già ti sento. Non c'è nessuno, no, non è stato nessuno. Con chi stai parlando? Dato quello che ho fatto io, ho cucinato. I funghi. E altro conto, aspetta. A forza di aglio, però sembra il peperoncino. E belluca. Sì, aspetta, sarà un altro. Graziano. Ma non sei che da pazzi. Graziano. Adesso Graziano. Chi è? Sono Ottore. Non ti sento, no. Sono Ottore. Non ti sento, troppo basso, sì. Non c'ho voce. Sono Rauco. Pigliati una pillola. No, voglio la supposta. Già va bene lo stesso. Voglio vedere se fa effetto. Non ti sento bene, non ho capito niente. Non funzionano, Luca. Precoso. Ciao Marino, ben sentito. Buonasera, signor Graziano, cosa stavi cucinando? Ah, funghi? Olio e peperoncino, non mi sbaglio. Aglio, prezzemolo, peperoncino. Poi farfalline con il sugo, melanzane alla parmigiana, le taglio tutte con la forbice e mi condisco la pasta asciutta, la parmigiana con melanzane. Sono Aredda, oia, aspetta, oia, c'ho il naso intasato, che stavo tagliando un po' di erba, sai, c'ho l'allergia, mi sono messo in un punto dove mi faccio male e faccio il naso intasato, va. Vabbè, so letto, sì. No, mia moglie è scesa giù nel giardino a finirlo di pulire, perché l'ha pulito l'altro giorno con mio nipote, si è cavato dei sacconi di erba, adesso ne è uscito un saccone, e piano piano se lo pulisce bene, lo pulisce sempre lì il giardino che c'è sotto a casa. Questi giorni mi avvicino, ti porto un po' di quelle cose grandi, ti porto. Permesso, passo io. Avanti, buonasera, signor Gigante. Io oggi avevo ordinato un decespugliatore nuovo, mi è arrivato oggi, Bartolini me l'ha portato. E di quello che lo dividi in due, no, per starci in macchina. L'asta la puoi staccare, capito? Ho capito, sì. Aspetta, c'è stato un brecco, lo facciamo entrare. Avanti, signor Gigante, con la buonasera. Buonasera, dottor Marino, buonasera anche agli altri che non ho ascoltato. Ma chi c'è a questa parte? Grazie, hai fatto un errore a comprare quel distributore che si taglia in due. Quando lo inserisci, poi vai a togliere, non esce più, si inchioda. Te ne do qualificamente il coso, che ce l'ho io. E non esce più, si inchioda tutto. Guarda che gli ho messo il grasso io, perché l'ho guardato e il grasso non veniva. Allora gli ho messo il grasso proprio, quello che metti dove c'è il rocchetto. Ne ho messo un pochettino lì dentro e così l'ha ingrassato. Dovrebbe uscirne. c'è un blocco e più c'è una farfalla che stringe. Così è il tubo. E allora, c'è la leva, devo passare la leva e stringe la farfalla. E per mantenere il piolino dentro il buco. Quel buco si allarga, il piolino ne salta e comincia a rigare l'alluminio e poi non esce più. Non so come l'ho tolto io l'altro giorno, perché mi serviva a vedere l'alberino se era rotto. Ammazzate che hai preso, la giubbotta della morsa, pesta, pesta, pesta, ne è uscito. Vabbè, sì, al limite non esce, lo dago tutti in tre, già pensate a stessa in macchina. Perché in macchina l'ho messo dal sedile di davanti a sinistra, ci punto, metto le buste, no? Ci punto dove c'è il rocchetto a parte il vetro e poi lo metto che scende nel sedile di davanti al fianco. E già andava il matrice, ma se per caso non me ne esce, tu da così. Se ne esce è stato più comodo perché sta dentro il cofano bello chiaro. Prima ne usciva, ora non esce più. Ne aggiù due, siamo ad uno. Un 25 cc e un 43. No, questo qui è un 43 e l'ho preso in offerta tramite Amazon. E ne ho preso anche un altro adesso stamattina, in offerta lo stesso. E boh, non so cosa pigliarlo per un vizio. Adesso provo questo, poi vediamo. A chi l'altro, un vizio imbecille, mi ha detto, c'ha il pistone ingrippato, ci vogliono le facce, il pistone, l'albero. Praticamente è buon nuovo, mi si dice, ma la te non è biglio, non preoccupare ci 300 euro. Ma gli hai domandato a Mariani magari, no? No, dai che c'è un imbroglione che vede, no, che la butti butti. Stiamo pigliando dalle semicille, non prende nulla, guarda, io se prendo qualcosa, io ho preso degli attrezzi, che se io c'ho le garanzie, c'ho squadra, che se io, la da erba, tra le siepi, a scoppio. Tutto da cosa ho preso, tutto da Sanna, qua. E sono di marca e tutto quanto. C'è un bel centro assistenza, lui stesso. L'ha già legato un legislatore che mi si è facciato la collicella, mi ha messo anche la. No, poi si è accorto appunto che c'ho io davanti, c'era anche la molla. Mi ha messo la molla, tutto quanto, roba veloce, e l'ho speso poco. Da Guido è un imbecille, ci siamo dovuti, guarda, già ti dice qualcosa per chi, se lo vai avanti per chi. Quello a me mi ha fregato due volte, non una, due volte. L'altro giorno ha fregato a mia sorella, ha detto non c'è andare, no, dice che me lo fa veloce. Per mettere il filo dell'acceleratore, a cancello dal carburatore, alle vette che c'è per tirare, 30 euro li ha preso. Una farmacia, è una farmacia, piccoletto, ma è del Volpino quel ragazzino, che c'è. Boh, quanto hai pagato, sono soddisfatto, grazie. 156 euro in offerta, mi è venuto questo qua, il trasporto gratuito, e ce ne sono un bel, se guardi su Amazon, li vedi, ce ne sono un bel in offerta solo, capito? E me l'ho ordinato lì, 4 di Bapputo mi arrivi, ma l'ho pagato con la PayPal e mi arrivi di 4 giorni con Luci. E ormai gli ha fatto tutta roba veloce, no? Tutta roba veloce ormai, gli ha... la tecnologia, meglio così, avanti, va chi? E signor Squalo, non si è sentito stasera? Il cane ce l'ha mangiato, grazie. Buonasera Bacchisio. Buonasera Luca, mi ha scorciato. Tu sei il rauco peggio di me. Vabbè, tu non l'hai fatto. Avevo comprato quello che ci ho portato da Vici imbecille. L'avevo comprato lì da Brucio San. Ma fila via un desanni buono. Era sempre fermo, gliel'ho portato a cambiarli. E le guarnizioni mi ha preso 35 euro, ha funzionato un paio d'ore, si è inciulato, buono ti fa tutto. Le ho riportate e mi ha detto così, adesso domani ci va mia figlia e me ne lo porta, un cavolo che gliene lascio. Magari avrà una fesseria, vai e portalo di là, o porti da Sanna, i punti, o porti da cosa, da quello lì non aveva regato nulla, l'ho preso. Tanto è una farmacia e ne approfitta, l'ho preso la grazia. Sempre che non mi ha bucato i pezzi, non ne sa tutti i pezzi vici, cosa ne so. Non sappia come ti imbacca a missi, chi vendiete 300 euro, ma non sta in Nanti. È una farmacia, è caro che i debiti. È entrato Luca, ma io non ascolto Luca. Ciao Luca, non ti posso dire, mi hai ascoltato perché io non ti ascolto. Comunque avanti. Marino, mi senti? Prova. Marino, mi senti? Prova. Prova. Oh, mi sa che non mi sente. Marino, non lo senti a Luca? L'ho sentito l'ultimo passaggio. La prima negativo. Luca si deve puntare verso di te, grazie, solo io non l'ascolto, Toccarti negativo non l'ascolto. Prova nuovamente Luca verso Cristiano. Luca, ma tu lo senti a Marino? Adesso a provare verso la zona mia, a vedere se ti sente. L'ultimo passaggio, un pezzo ti ha sentito. Lo sento, forte e chiasso. Adesso ti ascolto bene, vedi? Adesso va bene Luca, comunque ben sentito, dai, avanti, fai girare. Ehi, ciao Mari, sono nell'altra camera, dai. Io ti ascolto benissimo qua. Avanti, Bacchisio. No, ti parli anche stasera in campagna, Luca. Ti ho ascoltato quando eri in campagna. La tua è Graziano. Arrivavi bene. Però poi mi sono spostato più avanti e stava facendo, ti ho perso. Non lo sai queste frequenze come sono fatte, sono un po' così, dai. Graziano arriva una bomba lì giù. Sembra che sia sotto la macchina, nascosto. Avanti, Graziano. Io sono con l'antennino, mi sono in cucina seduto, dove mi siedo sempre, già l'hai visto, Bacchi. Sempre da lì musulo. L'antennino, quando ero in campagna io non l'ho mai sentito. Sì, ma ti sentivo molto disturbato. Perché ci sono le linee telefoniche lì, sono un casino. Fino a che non ti allontani dalle linee telefoniche c'è sempre il casotto. Vuol dire che era un po' disturbata. L'altro giorno ti ho sentito bene, oggi invece era disturbata la linea. Aspetta, riprendi Mari. Ok, Luca, adesso sta arrivando sparato qui a Ottava, Sta arrivando sparato, non vedo dove vanno. E secondo 20 metri, secondo il camerino non prendo nulla. Bene, avanti, signor Bacchisio. Io come ti arrivo, sparato o senza sparare? Tu stai arrivando sparatissimo, Bacchì. Modulazione bella pulita e asciutta, non bagnata, avanti. Perché io... Le antenne le lavo in varecchina, capito? Metto lì un po' di varecchina nel bagno ed escono più forti perché sono più pulite, candide. Lo sapevo io. Comunque per quella faccenda dove sicuramente avevo molto stazionare, ma chi? Adesso domani vediamo, perché per stare sul tetto ci vuole quella scalata. Io ce l'ho, ma è pericolosa come ce l'ho io. Adesso vediamo se becco il mio confinante, se me la dà nuovamente. Sto pensando che sia quello che mi hai detto tu, Avanti. Che sia acqua? Io sto pensando sia quello lì, Quello lì sto pensando io. Bisogna controllarla. Hai provato stazionarie, ne hai? Sì, sono stazionarie. C'ho lo strumento attaccato qua, c'ho lo strumento, e me lo segna. Ho fatto quella prova che stavi dicendo, negativo, niente, non... Nessuna scintilla. Adesso se provo la scala, vediamo, la scendo, la smonto e la controllo. Cerco di sigillarla col silicone, vediamo cosa ne esce. Ma no! Sì, ma sei riuscito a farlo funzionare? Sì. È come hai detto tu, comunque, dai, come hai detto tu ho fatto. Me lo segno, Scendi a fuori scala sia uno sia l'altro, ma chi? Dunque mi diciamo un bel. E allora no, allora vai a fumo tu. Mi danni un po' Graziano di stazionaria che se le mette lì vicino alla stazione. Graziano, le stazionarie te le dà, Marino. No, non è buio, io ne ho sta stazionare, infatti io con la 27 esco con la potenza azzerata, esce una bomba, solo c'ho stazionare perché a 2, anche se non se l'uso stessa potenza, e arriva bene lo stesso, però se aumento potenza ce l'ho a 0 la potenza, se aumento mi segna più stazionare perché c'ho una prolunga collegata al filo che scende dall'antenna e quello mi crea le stazionarie, capito? Quando lo cambio del tutto non ne ho niente stazionarie, capito mi hai? Io sto pensando che mi sia entrata acqua invece nell'antenna, boh, mi pare entrata, c'ho una bobina, mi pare entrata Eva, vabbè domani vediamo, dai. Avanti Luca! E magari è entrata nel PL, l'ho isolato il PL sopra l'antenna, con il nastro vulcanizzante. È tutto isolato, grazie, è isolato il nastro vulcanizzante e poi ci ho messo il nastro normale. E poi l'ho riempito di silicone, di cosa, grasso, vaselina dappertutto, dove sono tutti così intorno, là diciamo, nella L che c'è. Boh. Adesso vediamo, vuole scesa, non c'è niente da fare. C'ho stazionario, non poco, un be, appunto, sono staccato, sto solo ascoltando e basta. Solo ascoltando, e boh. Avanti Luca! Ehi, mi sentite, sì? Sì, già ti sentiamo. Non ti sento Luca. Luca non lo sente a Marino, te non ti sente. Si è spostato sicuramente Luca. Dalla cameretta si è andato in cameretta, così è Luca. Cosa Marino? Il passeggero è fatto, non ti ho sentito, adesso sì. Avanti. Purtroppo mi sposto Marino, prima ero in cameretta, capito? Adesso sono in camera da letto, dalla parte della piazza, dai. Ti ho ascoltato a livello QRM, comunque ti ho ascoltato, dai. Bene, avanti, signor Bacchisio. No, sta uscendo bene, Luca. Vabbè, noi siamo vicini con Luca, dunque. O si mette come da letto in cameretta nel soggiorno, la scala e siamo vicini. Appio. E te ne squalido, grazie, ti ho fatto interrogativo, non l'ha sentito stasera. Bacchi, sicuramente se l'ha mangiato il cane, non hai capito. Ho visto a mezzogiorno, lo trascinava, la vasia con rito vasia. Ah, vedi, sei cazzato, se l'ha mangiato lo cane. Bravo. Grazie, abbiamo visto a mezzogiorno, torre squalo col cane. Bastiano è spostato sicuramente. E così, sicuramente ho impegnato, oppure è andato a prendere o santo su all'ospedale, al genero, a Bacchi avanti. Sono andato a trovare il genero all'ospedale, infatti, è ora di visite. C'era proprio così, c'era andato a trovare il genero. Caspita, mi sono messo a mezz'ora a tagliare un po' di erba che il mio genio ha fatto tutto quanto con la erba, no? E è rimasto un pezzettino in fondo vicino all'ingresso, ma mi sono uscito a tontonardo. Adesso quell'erba maledetta, c'ho il naso tutto andacoso, per carità. Già c'ho allergia, quell'erba bisogna ci mettere un po' di... tutto a cemento bisogna ci faccio, io Bacchi. Facciamo un bel 13 e faccio tutto a cemento, avanti. Sto qui! Avanti, grazie. Eia, Marino, comunque in omaggio mi hanno dato tutto il kit anche. Il filo, una candela, gli occhiali, la maschera, il bidoncino per la benzina, il bidoncino dell'olio e due confezioni di olio da 100 mg per fare la miscela a 5 litri. Mi hanno dato la chiave e chiave a brugola, tutto insomma mi hanno dato. Qual è in omaggio? Sono andato quasi tutto quanto, adesso. Sono andato l'olio per fare 5 litri di miscela, va bene, dai, grazie. Andrà bene, va benissimo. Noi invece impazziamo a comprare la roba. Invece qua compri la roba e ti danno anche tutta la roba in omaggio. Bene, meno. Avanti Luca! No, due me ne hanno dato boccette di olio, ne posso fare 10 litri di miscela, capito? E non puoi adoperare come misurino, a parte che mi hanno dato anche il misuratore. Quelli li puoi adoperare come misurino per farne 5 litri, capito? E io ho il battolino, ho il battolino piccolino che è 100 mg, no? È segnato, è graduato, dunque io mi leggo sempre con colori, capito? Adesso ne ho fatto un litro e l'ho anche la metà l'ho usato, capito? Non ne faccio molto, perché sennò se ne faccio molto me ne rimane e poi si vintieggia e ti rovina il motorino, capito? Ma allora che lo uso lo faccio. Benissimo, avanti Luca. Eia, eia, grazie a tutti, la cena pronta, così, funghi? Funghi e pasta asciutta, farfalline alla parmigiana con le melanzane. E allora, già pronta, vado, un buongiorno a Barista. Grazie, mi se viene bene da vame, fine di, non fammi dare di melanzana alla parmigiana, che sai mangio, mangiato un coso mangio, mangiato, sai lì. Con quel parmigiano reggiano mio, originale, che cartella aperta, è un buon bossi, avanti, Bacchi. Io. Il Graziano stasera parmigiano, piccante, capito hai, e melanzane, andare Graziano, di lusso. E poi mi è rimasto da mezzo di un poco di polpetti e la zicconia buttita in salata. Hai fatto la zicconia in salata, è scritta, bubu. E allora, condita, cuocio d'oliva, un filo d'olio d'oliva e aceto balsamico cremoso. Prima la girata è dentro. E allora, volaretta è con quell'amarognolo che ami. Ma sei attento con l'amarognolo, amico, che ti ha. Faccio di vista, hai capito? Se no, stanotte sono scintille. C'è di giorno, vabbè, ma di notte io leggero. Avanti, Luca! Eia, eia. Hai visto, io c'ho la fame. No, stanotte mangio un bel piatto di brodo, grazie. Ah, no. Fuso di pollo con le carote. Ah, fuso di pollo con le carote. Domani il brodo, dai, leggero stanotte. E due favette me le mangio, piccanti. Speriamo che lo stomaco rimanga... che faccia da bravo, ecco. Oh, il brodo l'ho fatto ieri era lunedì e ho fatto il brodo, leggero, brodo di pollo. Bonaretto era, acciutatura, con la minestrina, minestrelline. Ah, io non mangio che è, giusto, acciutatura. Io ho messo minestra piccola, fin dei fini, o puntini, o stelline. Va bene, dai. Già va bene, ma chi tu cosa mangi? Ah, stasera io cicorie bollite, cicorie amarognolo che dice Graziano, non so se sono buone, bisogna vedere se sono inquinate Graziano queste cicorie. Buoni, buoni, dolci, mintaggi, so, amarognolo ne ha appena, non è che sia lì, buone, Bacchi. E mi devi dire chi è, te la date, dove le comprate, guarda me le compro anch'io questa marognola, dove sono dolci? L'orto botanico, all'orto botanico, scendendo lì alla Buzzi. Ah, capito, hai marito dove è l'orto botanico? Buonaredo, poi con la marognola è ancora migliore. Ascoltate signore, io chiudo perché devo andare al mio vicino. Avesse le se mi impresta se becco la scala per domani, se no non faccio nulla. Ciao, grazie, ben sentito, buona cena, saluto in casa, a domani se concilia, ma chi? Se in casa già ci vediamo domani, dai. Saluto in tutti gli ascoltori, ciao anche Luca se mi stai ascoltando. Io faccio quelle di avanti, ma chi? Ehi Marino, salutissimi, saluto in casa. Buon coletti, buon tutto, a domani. O ce la vediamo o ce la sentiamo, una delle due ce la prendiamo. Avanti Luca. Eia, ciao Marino, se mi stai ascoltando. L'ascolto. Buon tutto a domani, se coincide. Avanti, grazie. Ciao Marino, di la verità che è una scusa che c'è giusta la fame. Altro di cara, Va bene, ciao, buona cena, a domani se coincide. Ciao Marino. avanti, chi è che c'era? Grazie, tutto ricambiato, a domani, dai, si coincide. Saluto in casa, dai, ciao ciao, saluto a tutti, ciao, riprendi Bacchi, ciao. Ciao Marino, ciao, a domani, benissimo. Capito, hai, grazie. Ci stiamo chiedendo un po', quell'orto botanico, non è che c'è roba inquinata, no? No, no, lì è tutto buono, tutto genuino, c'è il pozzo a sonda lì, pompa leva da 150 metri. Ed è mezzo pulito, non posso dire. Allora ci possiamo fidare di mangiarla. Pure la insalata cruda allora ci può mangiare. Ehi, cacca e foglietta, ma è meglio bollita, ma non sicuro è sempre meglio bucosta, è più buona. E da poi si fa la prima, che è morbida. A impignitura quasi, Luca. Si fa la prima. E la spingi Graziano a scendere. Luca, la casale fa queste e poi te le mangi. No, sono qua Graziano, no, sono qua. Stavo leggendo un po' il giornale lì su Facebook. E niente, ho anche paura di mangiare. Anche io, anche Bacchizio. Via. Andiamo a vedere me, la diceva. Oggi non è entrato, il torre è sparito. Secondo me è partito un burletto con l'aereo. No, no, no. Deve essere fatto a cuscire la cicoria. Deve essere la fatto la cicoria, proprio lì tu hai. Non si è inteso per nulla. O è a Giugendi che cosa? O è Santo Giovanni con i buti. Sicuramente la rimbusta a racchettare le palle. Un rompipalle, no, è raccato palle, un rompipalle. Luca, neanche un poco ti è passato. Sì, ce l'ho, però poco a poco va, c'è. Poi c'è stanotte proprio, per forza lo stomaco. Anche io ce l'ho, ma sono bussato la cadrea di traverso. E mi sono cucinendo un bianco stirato a finire. Sembra di meno così. Però già ce l'ho il dolore, mica non lascio. Però non ci faccio caso, a chi si vive se buonanotte al secchio. Penso a tutti rimarranno già, non me ne penso più. Vero Bacchi? Bisogna pensare, Marani, vedo che lavoro non posso manco far vedere. Sto con Rauco. In campagna non va via nulla, la sassassa lì e mangiano tutti i malanni. Guarda, mi si vanno da là giosso. L'aria in città è contaminata, in campagna è bella pulita. E pigliate una mentina, non vedrai. Ha giocato pure uno spray a menta forte. Di momento che lo strusti tutto può andare bene. Dopo i 10 minuti non serve più a nulla. Già lo so che funziona, non ce l'avevo anche io, però, no, si è aggrampato, non fate la nuca, ma, no, ho le caramelle io alla menta, quando me ne mangio due o tre, so caputo, quelle furtini, quelle e calipo sono. Ho preso quelle furti nere, sono piccoline piccoline nere, con la buccia rossa. Te ne mangi un carretto, te ne mangi, al momento che stai a succhiare tutto da me, finita la caramella, torna la doccia, ma la taccuglia. No, a me no, non me ne vado giù, se io ho queste caramelle, sono corti, me ne mangio due, tre, là, anche la notte, il comodino me ne pongo sempre giù, a chi di un bel volte, tanti notti, me ne scelto. Me ne piglio una e me la succia, da me mi trovo. E mi aiuta a respirare anche. Quello sì, ti aiuto. Io avevo fatto il contratto con quello vicino al garage, con Michele. Ogni sera che passo mi devo prendere una busciaccala. Già ho capito quale sono. Già sono buono anche qui. Molte volte me ne compro anche in farmacia. Io gli dico, quelle più forti che c'ha. E mi dà sempre i più forti. Ce li aveva con la farmacia vicino a casa tua, l'anno scorso le prendevo lì, quest'anno non li aveva, li dovevano portare e non mi sono comprato un rato. Magari le hanno portate, basta ci passi quando stai rientrando, ti fermi due minuti, entri Magari ce li ha adesso. Sì, ma mi devo portare la macchina in tasca, se no è poco da fai dare male. Cosa? Se vai verso l'orario le 5:30, così non va mai nessuno. Non è come prima, affollato, affollato. Capito? Già ce n'è di meno gente, un bel culo. Non verrà nessuno, si azzilla, ma con cane. E adesso lo stesso. È stato porticato da Luca domenica. E mi sono compassato, mi hanno fatto la fotografia da me diventa a capo. Magari c'era gente perché c'era la festa domenica in piazza, capito? Anche se non hanno fatto nulla, qualche gente già è soggiunti, pur si non verrà nulla. Si aggomaro io un figlio sempre da che passi che forse un ruino in largo largo ha sempre alta la vista. Ma se tu passi davanti alla scuola qua giri alla rotatoria entri di parte di davanti alla farmacia tanto è 13 noi bimboni uni invece vado metto la macchina in garage lascio il portafoglio in casa. Mi porto solo pochi spiccioli in tasca e vado lì, a piedi, vado e torno. Anche così puoi fare, ma la tasca è sul basso, da casa di Aero che è vicino, a Buda. Vediamo se c'è Luca, Luca rientratoci. Cosa, grazie? Se c'è ancora, adesso chiudo, dai, che sono le 8, che mi devo fare anche l'insulina. Ce la sentiamo domani se coincide, ciao Luca, buona cena e buon tutto. Bacione a Marina, anche da parte di Paoletta. Ciao Bacchigia, anche a te e anche chi è in ascolto. Chi c'è in ascolto, arrivederci a tutti. A domani Bacchi, riprendi. Aspetto il finalino. Sì, grazie, anche io ne approfitto. Ciao, grazie, salutissimi, buona serata. Grazie delle quattro chiacchiere. E saluta la signora, a domani se tutto coincide, anche per Luca la stessa cosa, ciao Luca, grazie della compagnia. Ci sentiamo domani, buona cena, buon tutto, saluta la signorina. Ma chi c'è da questo istante passa in QRD, ciao ancora a tutte e due. Bea, ciao Bacchise, ciao Graziano, allora, saluto anche da parte di Marina, ciao anche a Paoletta da parte di Marina, buona cena e buon tutto, a domani, ciao. Ciao, ciao, domani.